Italia in controluce. Buongiorno, buon pomeriggio, oggi è il 19 di dicembre, Italia in controluce, il programma di Radio 24 che indaga sulla società italiana, due edizioni quotidiane che raccontano l'Italia. Inizia oggi il viaggio di Italia in controluce tra i cosiddetti pretacci. Sono interviste che raccontano la vita di questi preti di frontiera che lavorano soprattutto nelle grandi città del nord. Giacomo Segantini ha intervistato Don Gallo da Genova. Io nasco sotto l'influenza di un regime clerico fascista, famiglia di operai, povera, mi guardo attorno, sono attirato dal mare, 15 anni ero già in marina, via via, pur essendo giovanissimo, mi rendo conto di cos'è la guerra. E poi il primo incontro, mio fratello era tenentino del Genio Pontieri e per me era il mio mito. Nel 43 era una distanza a Milano per sbaraccare le macerie dei bombardamenti e scoppia l'8 settembre, rastrellamenti, bombardamenti, fame, e mio fratello dopo un paio di mesi arriva a casa e la mamma gli dice: cosa hai deciso? Ormai si era visto tutte le notizie che arrivava anche di amici, parenti portati in Germania. E lui dice: io ho già deciso, ho scelto la resistenza. Ecco che comincio ad attingere dei valori. Quando è avvenuto l'incontro con i salesiani? Siamo del 47, mi ricordo ancora il nome e cognome di questo giovane salesiano, Don Piero Doveris, il quale ho visto un nuovo rapporto tra educatore e educando. E allora incontrai Don Bosco. Quando disse alla mia mamma: vado a farmi salesiano, la mamma ci si mise le mani ai capelli, dice: ma tu ormai sei un uomo, sei sperimentato, dove vai, ci stai due giorni? Invece ci sono stato ordinato prete nel primo luglio del 59, ho incontrato Don Bosco e con Don Bosco ho incontrato Gesù. Da diacono chi vedo sul trono pontificio? Papa Roncalli, Papa Giovanni XXIII. E poi via via dai primi anni della mia presbiterato che vedo il concilio che si muove. Tant'è vero che io del 65 gennaio scelgo di uscire dalla congregazione secondo il diritto canonico e chiedo al mio vescovo di Genova, allora il grande, potente pupillo di Pacelli, Cardinal Siri, di essere accolto per stare in più di mezzo alla gente. E ecco che io mi trovo quindi al servizio, vado a finire nella parrocchia del Carmine a 100 metri da Via del Campo. Che influenza ha avuto su di lei Fabrizio De André? Continua a dire che è un quinto evangelo, che è il Vangelo di André, che completa, per me la frase in direzione ostinata contraria è la sintesi evangelica. Il cristiano che piglia coscienza, soprattutto per la coscienza che cammina con gli uomini e le donne del suo tempo, nel suo quartiere, e quindi cerca. E io che avevo i valori della resistenza, della Costituzione, mi ritrovo col mio grande Vangelo, sempre da verificare ogni giorno, e dall'altro ormai sentito profondo delle antenne la Costituzione. Io viaggio con due bandiere, con la bandiera come laico, con la mia coscienza civile, la partecipazione politica. Avevo incontrato Don Milani. Cos'è la politica, Don Lorenzo? E lui mi disse: è uscire tutti insieme dai problemi, ma con una priorità, a partire dagli ultimi. Allora vedi, no? Questi incontri, e soprattutto ho trovato finalmente, dopo il mio curriculum studioso, e ne sono convinto, ed ecco che perché di nuovo con De André, che dai diamanti non nasce nulla, dal letame sbocciano i fiori. E cosa ho scoperto? Che quando mi chiedono a quale università si è laureata, io subito gli ho la strada, quindi mi sento che Gesù non fonda nessuna religione, non fonda nessuna organizzazione, però Gesù visita tutte le culture, tutte le religioni, soprattutto si incontra per la strada, si incontra e ascolta, e quindi non fa la guerra, non erige muri, il dialogo, cioè dà la parola. Poi ecco perché io sono presente, faccio delle scelte. Io ho preso il diploma da partigiano del generale Alexander, e partigiano vuol dire stare da una parte. E da che parte sta? A 40 anni ero già nelle università con i giovani del 68. E 10 anni fa ero qui sul campo della tossicodipendenza e noi avevamo questa linea, il rispetto. E allora, capendo che era un impegno, che era un grande business della mafia, cioè quindi abbiamo da 40 anni una strage mafiosa, e allora questo proibizionismo non porta da nessuna parte, non viene rispettato il principio dell'autodeterminazione, quindi darei un business di strage mafiosa, l'unico che guadagna la mafia: coltivazioni in aumento, raffinerie in aumento, distribuzione sono capillari, miliardi riciclati in nero, la roba che viene venduta così senza nessun criterio, senza nessun richiamo, senza nessuna presentazione. Ormai ormai poi in Italia i servizi per tutti diversi stanno crollando. Noi in Liguria noi siamo creditori con le ASL migliaia, centinaia di migliaia di euro. In Liguria almeno, mi risulta anche altri, i CERT non hanno una lira per chi desidera entrare in comunità. Allora ecco da che parte sto. Come è nata la comunità di San Benedetto al Porto? Io a gennaio alla parrocchia del Carmine, per 5 anni abbiamo passato, a dicembre abbiamo cantato tutti insieme la comunità ecclesiale e la conclusione della primavera della Chiesa, queste strade tracciate al Concilio Vaticano II. Quest'anno al mio compleanno in quel quartiere hanno fatto un murales ricordando la mia cacciata, trasferimento in via amministrativa, 5 anni e poi il 68 abbiamo avuto, quindi era già creato un nucleo. E allora poi, attendendo la disposizione che non arrivava di 5 mesi, abbiamo chiesto ai vari parici, un gruppetto che ero rimasto, dei miei giovani e non giovani, un gruppetto, un resto di Israele, come si dice, e finalmente il parco di San Benedetto ci ha accolto. E cosa ha fatto? Ha aperto una porta e senza chiedere in curia, dopo tanti passaggi siamo riusciti e siamo qui dall'8 dicembre del 70, abbiamo compiuto 40 anni l'8 dicembre scorso. Cosa abbiamo fatto? Cos'è la comunità? Abbiamo aperto una porta, così abbiamo cominciato a aprire. Che tipi di disagio avete affrontato? È chiaro che per i giovani il problema degli anni 75 comincia a farsi pesante, quello della tossicodipendenza, ma così la psichiatria e allora la chiusura dei manicomi dopo e quindi tutta l'attività, l'attenzione ai detenuti che escono dal carcere, cioè praticamente non è settoriale. Via via la comunità qui dal Saccapelo si è allargata, abbiamo 6 comunità per il Piemonte, in città abbiamo già attività tipo trattoria, libreria, negozio bottega, centro sociale proprio nel centro proprio del ghetto di Genova, una casa di quartiere, cercando di stimolare anche altre associazioni. Infatti c'è l'associazione San Marcellino, di una tradizione antica dei gesuiti, i quali collaboriamo, cerchiamo, le trans, abbiamo cercato di animare le trans, cerchiamo di camminare, di stimolare, di ascoltare, ma di stimolare le amministrazioni pubbliche, quindi i partiti, adesso i movimenti, e con una porta aperta, e siccome io faccio le ore piccole, quindi dalla via Mura degli Zingari, che è qui dietro alla chiesa, c'è un lume acceso. Secondo lei, dagli anni 70 al 2011, cioè oggi, il volto dell'emarginazione è cambiato? Il volto dell'emarginazione è sempre più mostruoso, perché la comunità innanzitutto mette 2 centralità, per i servizi sociali la centralità del pubblico, lo Stato, ecco la Costituzione, è lui che tutela, quindi la centralità, queste privatizzazioni, naturalmente che non è che fa tutto, quindi ben venga l'iniziativa dei volontari, delle cooperative, delle associazioni, soprattutto un'altra centralità, la scienza, questo è il punto, vedi che Gramsci, io l'ho letto che l'ha scritto nel 19, agitatevi, abbiamo bisogno del vostro entusiasmo, organizzatevi, ma seriamente, noi facciamo il corteo inutile, o che so io, violenze, o vandalismo, terzo, studiate, e quindi noi mettiamo criticamente la centralità della scienza, l'autorità della scienza, anche per quel che riguarda l'antropologia, la psicologia, vedi tutta la storia, il comparto della bioetica nella mia chiesa, tutto quel che riguarda ancora, pensa all'ultima specie di discussione, questa addirittura non si è arrivata ad una semplice legge dove si chiedeva un piccolo aggravante per l'omofobia di Lacan. Ma pensa, tu dici, l'emarginazione con l'arrivo dei migranti, continuiamo ad assistere l'Occidente cristiano che traversalmente si fa portezza per respingere, e quindi io vedo qui ancora vicino a noi in periferia c'era un 30 dal Ghana mandati dal governo, profughi, questi nuovi profughi, e la popolazione raccoglie le firme perché c'era un vecchio ospedale ristrutturato però vuoto, in attesa di destinazione, no, vogliamo l'ospedale. Quindi io lo dicevo ai cardinali da tanto tempo, di nuovo con Gramsci, quanti sono i nostri vice capitali scritti nel catechismo? 7? Dico Eminenza, lei che conta a Roma, mettete l'ottavo, l'indifferenza, ecco perché è peggiore. Tra l'altro ci fu un documento bellissimo, lo Spirito Santo aleggiò sul Consiglio Permanente della CEI, sulla Conferenza Episcopale dell'81, il titolo era La Chiesa e le prospettive del Paese, un titolo centrato, la Chiesa non cammina da sola, la Chiesa non è l'isola felice, la Chiesa non è l'agitazione di elemosine o cosiddette carità, ripartire dagli ultimi. E allora scopriremo i valori, prima abbatteremo gli idoli, ecco il cristiano, il potere, il danaro, l'egoismo, e scopriremo i valori, ecco la nostra presenza nella comunità. Era la seconda edizione di Italia in Controluce, siamo tutti i giorni su Facebook, la pagina, il gruppo, su Twitter, abbiamo un blog su radio24.it e siamo rintracciabili via mail controluceradio24.it. Torniamo domani alle 6.30 su Radio 24.